Ciao a tutti. Caldo argentino. Viali vuoti o raccogli di affanni, tra le baracche abbandonate io mi dileguerò. Storie forse di soldati, di soffrosi in una terra straniera, la mia corpi ammucchiati, oh se non mi vedi tornerò. Cinque loschi figuri, ormai la frase lo sapevo già. Calci e pugni mi confermano l'umore barbaro della città. Repubblica o finzione, ordini dati sino all'aberrazione. Magia e religione, noi tanghi della passione. Con tutto questo caldo, amado mio. Quando ti rivedrò.